I call so sisters and so brothers. I can see the danger signs. They only help to underline your beauty. I'm not looking for an easy ride. True happiness cannot be tried so easily. Born a lover, you're born to suffer like all soul sisters and soul brothers, like all soul sisters and soul brothers. Take your time, I'll be waiting in line. You don't even have to give me the time of day. When you're born a lover, you're born to suffer like all soul sisters and so brothers, like all soul sisters and soul brothers, like all soul sisters and soul brothers, like all soul sisters and soul brothers. Questa era una qualunque dei Depeche Mode. E tu, Susy Musogrigio, che canzone vuoi sentire? Mi cogli al momento abbastanza impreparata, ma visto che sono di ritorno da Berlino, qualcosa di David Bowie. Una qualunque anche te? Sì, sì, sì, assolutamente una qualunque, ci sono così tante. Dunque, per voi, da Lorenzo Sarno e da Susy Musogrigio, David Bowie con Una qualunque. Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling shallow. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from my Ibiza to the north abroad. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best. Raccontaci un aneddoto sui Depeche Mode. Allora, David Gunn era un poveraccio della periferia di Londra, uh-huh. E nel movimento punk frequentavano più o meno gli stessi ambienti lui e altri, Ellison, Moyet, Paul King, quello che il cantante poi dei Culture Club, come si chiama? Boy George. Uh-huh. E c'erano pure quelli che sarebbero diventati i compagni di band di Gunn, no? Allora lo sentirono da 18enne, 16enne, mm-hmm. che cantava Hero di David Bowie. Hai capito. Spaventoso. E allora loro cercavano il cantante, il vocalist, il cantante, e sentendo lui che cantava Hero, ha detto scegliamo questo qua. Prendiamo sto strumento. E quindi, perché ha la voce bassa. Ok. E quindi questo è stato il modo in cui si sono azzeccati i Depeche Mode. Che a me i Depeche Mode non mi sono mai piaciuti tanto, ma è bello il cantante di Depeche Mode. Beh, comunque ha sempre avuto quel non so che, dai, onestamente. Quel non so che da Depeche Mode. Queste robe qui le ho sentite su YouTube fatte da Lucarelli. La vita dei Depeche Mode fatta da Lucarelli ma non ci credo. In 4 puntate che su YouTube c'è. Cioè, ha detto, immaginiamo una band, Londra, no? Sì, una roba più o meno, sì. Più che altro è una biografia di lui che ha tentato il suicidio 2 o 3 volte, si è drogato, overdose. Sì? Vabbè, ma quelle sono tutte allora, storie. Il gatto per che ha 7 vite sarebbe David Gunn, il gatto. Ah, ho capito. Questa è la metafora che ha usato Lucarelli. Sì, più o meno che l'immaginiamo, l'ha detto, anche se non proprio così. Vabbè, questo è. Invece la musica di sottofondo invece qui è De André, hai sentito? Vabbè. Sì, è la canzone di Marinette. Ci sta. Ma carina una puntata così in contumacia. Carina una puntata così in contumacia, giusto? Siamo nuovamente sul viale Caroi. Spaziale non l'ascolterò mai. Thank you. Spaziale. Aspetta, non lo so, fammi, Susi, raccontami un aneddoto qualunque. Sì, visto che siamo a tema di qualunque, vi racconto aneddoti qualunque, del tipo che a Berlino ci sono al Mercatino delle Pulci un'arena alla Mad Max Fury Road piena di gente, con un tizio che fa il karaoke improvvisatissimo, e arrivano personaggi da ogni parte del mondo, cantano, applausi su applausi, il baracchino delle bibite, arriva del cibo, arriva del fumo, arriva qualunque cosa, 2-3 mila persone, è tutto così spontaneo. Cioè, sembra un sogno, sembra. No, infatti è una cosa che Fantastico. Non avevo mai visto. Sì, meravigliosa, è incredibile. Hai cantato tempo. Tu? No, perché lì non so che liste di prenotazione ci siano. Credo siano casuali, però forse qualcuno partiva. Cioè, c'era quello bravo, c'era quello meno bravo. C'era un danzatore del ventre serbo. Interessante. Ma poi vieni a Coxo a cantare dal vivo di nuovo? Sì, dai, prossimamente ci organizziamo. Una volta che magari fa un po' più fresco, perché sì. Con sto caldo, chissà. Se oggi è venerdì 3 agosto, chissà se oggi venerdì 3 agosto, eh sì, perché è registrata, Sarno. È inutile che mi guardi così, siamo registrati. Chissà se guarda com'è il tempo venerdì 3 agosto, così possiamo parlare del tempo anche a Cox Spaziano. Adesso arrivo. Vai. Allora, vabbè, ma qua c'è per dei tempi tecnici, ragazzi, lunghi per il metro. Vabbè, allora mettiamo un'altra canzone, sì, a caso. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from some vast, unnameable fear. But the loneliness never left me. I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in, no ballad will be written, it will be entirely forgotten. And if tomorrow it's all over, at least we had it for a moment. Oh darling, things seem so unstable, but for a moment still. locali. Com'è il tempo a Berlino tre giorni fa? No? A Berlino tre giorni fa era caldo soffocante, caldo torrido, sì, caldo umido incredibile, pianura padana berlinese. Invece a Bologna qua non mi sta caricando una minchia, la pagina non funziona, al momento non è in grado di gestire la richiesta, quindi dicono così. Cambio pagina. Telefoniamo a Meteo Max. Mi è simpatico l'intervento che scrive sempre lui sul meteo, no, voi no? Sì, sì, è molto... È un servizio utile, dai. Un servizio alla comunità dello Stanzone. Venerdì a Bologna. Un tormentone. Sereno. Sereno. Temperatura compresa tra i 24 e i 37 gradi. 37. Bolla di caldo. Precipitazioni assenti completamente. Vento debole da est-nord-est. Esatto. Scrive. E dunque, malgrado Coxo sia registrato, abbiamo caldo sia oggi che oggi, che sarebbe oggi registrato oggi e oggi dal vivo. E vabbè. Minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Adesso tocca a Lolli. Konnichiwa, watashi wa Lolli des, yoroshiku onegai shimasu. Questo ci vuole un applauso. Thank you. già finito? Paesaggi spaventosi. Sono Teresa Ricci e stai ascoltando Corso Spaziale. Giorgio e Gino dalle strade del cielo, sulle bici stan pedalando e si chiedono se è proprio vero che la terra non sta poi cambiando. Giorgio e Gino pedalano a fianco, riparlando dei tempi lontani, e si chiedono se è valso a tanto quell'agire per un altro domani. Quell'agire per un altro domani. Giorgio si sposta in bici, una bici scassata, i cerchioni di legno e in mezzo gomma dura. Gino sulla sua barca lì, veloce e cromata, affronta la montagna, macina la pianura. Giorgio e Gino pedalano a fianco, riparlando dei tempi lontani, e si chiedono se è valso a tanto quell'agire per il nostro domani. Quell'agire per il nostro domani. Un pacco sul manubrio, son documenti falsi. Giorgio attraversa Lucca, sfidando ronde armate. Gino sembra allenarsi sulle colline in Chianti, ma porta nella canna messaggi importanti. Giorgio e Gino dalle strade del cielo ci sorridono a breve distanza e ci chiedono in modo sincero di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la speranza. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. Strade del cielo ci sorridono a breve distanza e ci dicono in modo sincero di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la speranza, di non perdere mai la speranza. Vaga scaletta. Non pensate anche voi che il tempo negli anni Ottanta durava di più rispetto adesso? Non so se l'ho letto da qualche parte, credo l'ho sentito dire da Monica Cuoghi, l'artista che in coppia con Claudio Corsello sono Cuoghi e Corsello. Ho sentito lei una volta che diceva che il tempo negli anni negli anni 80 col tempo si facevano molte più cose, e stavo pensando che effettivamente d'estate il tempo sembrerebbe più lento, sarà un po' il caldo, però per esempio oggi avevo un'ora di tempo per fare una certa cosa e dopo mezz'ora avevo finito, e ho pensato che magari se fosse stato inverno con tutti i nostri impegni avrei probabilmente in quell'ora non ce l'avrei fatta. Io nel frattempo, come sfondo, io sono in macchina, come sfondo stiamo ascoltando Radio Città Fugico, che ahimè a Casalecchio di Reno, in cui il luogo ameno in cui mi trovo in questo momento, ha dei problemi di ricezione, come sentite, infatti sta cambiando canale completamente. Detto questo, appunto, non importa. Ah, guarda, c'è un nuovo graffito con un uccello enorme. Bello, luogo comune c'è scritto, non male. Era un sacco che non entravo dentro al centro di Casalecchio di Reno. Comunque, Casalecchio di Reno a parte, invece la settimana scorsa sono stato a Budapest e dunque cuccatevi un po' di radio ungherese, radio di Budapest, visto che siamo sempre in un coxo piuttosto estivo. Kapcsán. Most az a terv, hogy a hamis hírek leleplezése és a közéleti szerepvállalást bátorító projektek erősítése érdekében a szer... Harsonán, és most felvételiztem Miskolcra. Tényleg? Így van. No, hát akkor ez... Egyben ez a mindent elsöprő szerelem. 95.5. Magyar FM, magyar zene. Magyar FM, magyar zene. Napitól a szétszakad. Ciao, vosso, sono Claudio, non parlo inglese, ma penso che mi capisci ancora. Ciao, ti voglio bene, chiamami 051 74 25 02. Un abbraccio a te e alla tua ragazza, ciao. Thank you. L'altro giorno mi sono sentito con Fedra che è tornata, è a Bologna e dunque prima o poi riusciremo a fare un coxo io e lei di nuovo. Però mi dispiace che non è stato quello di oggi e probabilmente non sarà nemmeno quello di venerdì prossimo, ma comunque anzi c'è anche la discreta possibilità che da qui a settembre qualche coxo salti, ma del resto poi ormai vi siete affezionati al nastrone di Radio Città Fujiko con quella fantastica musica e poca pubblicità che programmiamo, insomma. Per cui vi saluto, questo era Coxo Spaziale numero 231, io ero Stefano W. Pasquini e come al solito vi lascio con le parole del nostro direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. A venerdì prossimo sempre su Radio Città Fujiko www.coxospaziale.blogspot.com. Ciao. On white horses let me ride away to my world of dreams so far away. Let me run a warm and gentle wonderland far away. Stars away, where the clouds are made of candy floss. As the day is born, when the stars are gone, we'll race to meet the dawn. So when I can only see the gray of a sad and very lonely day, that's when I softly sigh. On white horses, snowy white horses, let me ride away.